Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. È SOS inquinamento in Cina, a Pechino l'aria è sempre più irrespirabile, l'acqua che esce dai rubinetti non è più potabile, un'emergenza vera che il governo della capitale affronta in questi giorni anche con l'Unione Europea, Unione Europea che risponde con un massiccio dispiegamento di forze, infatti è in corso una missione guidata dal vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani assieme al commissario UE all'ambiente Janez Potocnik. In ballo un giro d'affari per le imprese coinvolte da questa missione da oltre 240 miliardi di euro. Allora sentiamo Tajani su questa missione. L'incontro con il vice primo ministro Macai ha rappresentato il momento più saliente della missione per la crescita, con la quale sono arrivati qui in Cina molti imprenditori europei che vogliono investire, vogliono esplorare nuovi mercati e vogliono fare accordo con le imprese locali. Nel corso del vertice ho ribadito al vice primo ministro la volontà dell'Europa di trovare soluzioni positive, confermando la necessità di avere regole uguali per l'accesso delle merci e delle industrie nei due differenti mercati. È emerso dalla volontà del vice primo ministro cinese certamente una posizione di disponibilità e di guardare anche con particolare attenzione al vertice Unione Europea-Cina che si svolgerà a novembre. Favorire il protagonismo dei giovani nella costruzione della cittadinanza europea, l'obiettivo del progetto You and Me, promosso dalla Fondazione ISMU e cofinanziato dal programma Youth in Action della Commissione europea. Sono 60 i giovani europei dai 18 ai 25 anni provenienti da Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia che raccontano Milano attraverso una serie di video realizzati nel corso del Film Forum per la diversità culturale dal 16 al 26 luglio. Maria Luisa Pezzali ha intervistato la coordinatrice del progetto Mara Clementi di ISMU. Il progetto si inserisce all'interno di un lavoro portato avanti da una rete di partner da molti anni. Ogni due anni i giovani europei si incontrano in una città europea per condividere quelle che sono le loro esperienze di vita, non soltanto le loro esperienze di persone che sono amanti del filmmaking e che lavorano in questo ambito, ma soprattutto per condividere anche esperienze che riguardano la vita dei giovani in Europa. Quindi Milano arriva dopo altre città europee? Sì, le altre città europee sono state iniziate nel 2005, sono state Berlino, Parigi, Göteborg in Svezia e Lubiana nel 2011 e Milano arriva per quinta. E questo si tradurrà senz'altro in un messaggio rispetto alle aspettative, rispetto alla soluzione di problematiche che i giovani individuano come prioritarie in questo momento della vita sociale e politica. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo che sul sito di Eurocultura, organizzazione che dal 1993 si occupa di progetti di mobilità internazionale, c'è un interessante numero speciale del magazine Ora di Muoversi. Il numero è completamente dedicato al servizio volontario europeo e raccoglie bandi, notizie sui paesi di destinazione e sulle tipologie di volontariato che si possono svolgere e anche informazioni sulle associazioni a cui rivolgersi. Dal lavoro con i disabili in Spagna ai progetti sulla cittadinanza europea in Romania fino a quelli dedicati all'ambiente in Lituania. Sono veramente tante le offerte e le esperienze possibili in tutti i paesi membri e anche in quelli extra UE che hanno attivato partnership come il Brasile. Scaricate il magazine e trovate tutte le informazioni sulla homepage di Eurocultura www.eurocultura.it. Avete sentito, è decisamente ora di muoversi, grazie a Federico Taddia, Gianmarco Ferronato in regia. Europa 24 torna lunedì a partire dalle 13.15. Un saluto, un buon fine settimana a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.